vicino a metà. Ma molti la scelta. Sì, vabbè, c'è, c'è. Avanti Pierpaolo. Già, ce la ricerco un po' più tardi. Siete in caso con le precedenti al pesero, io ne ho portato tre qua per fare quei scarichi che hai visto. Tanto non sa se pesarmi. E pesaresi? Dove devi pesare? Molte volte le vedo scaricare qualcosa, col muletto, quando fanno le marce a piedi. Sì, già ho visto anch'io fare, quelli si arrangiano anche con quei scavatori piccoli. Li metto, c'è una specie, ho visto che c'è una specie di trafila fatta appositamente, la attaccava, anche la sollevava, la appoggiava nel posto dove la dovevano attaccare in maniera che scacciava questi cosi, e rimaneva lì ferma. Noi li ho visti con quel merlo, quello con l'attrezzo che usano, tipo scavatore. E quei scavatori piccoli? No, non quelli, quelli con la cosa grande. Quando stavano facendo le rotonde, là, ho visto uno di quegli scavatori che stava, le stava scendendo, voglia fare. Io ho visto lì anche mia Napoli, prendeva questo scavatore, c'era questa specie di braga fatta con le trafile, la agganciava, la portava, metteva un po' il cemento sotto, la appoggiava, boom, e lì la rimaneva quando la appoggiava, e da lì lo puoi proprio abbassare, addirittura lì tu manco la toccava, già più posizionata e tutto. Ah beh, se c'è la comodità per ripetere un po' godeva. Ma lei ha dato pisa chissà cosa. Io a me, vabbè, prima ce la faceva, pigliava i tre, quel carabinieri, ce l'ho visto fare anche così, anni addietro, ma con quegli scavatori che usavo, posso tutto, addirittura, persino, i presenti in pace con questi scavatori. Tutto fanno, sono comodi perché sono veloci, avevano fatto una gara in un programma, adesso non mi ricordo come si chiama, c'erano due che erano specializzati in questi scavatori, tu mi vedi come li portavano, ma con una velocità estrema. Grazie a me, ti do di più, li ho visti di lì in Piazza Castello. La parte che hanno fatto di lì dove c'era prima quei campioni e qua che hanno fatto la parte di Piazza Castello con quei blocchi lì dietro dove c'è la chiesa, ci avevano il piantone, se non ricordo, ci avevano attaccato allo scavatorino, ci avevano questo armese tipo granchietto invece che non attaccava come troppo e grosso, tipo come troppo e poco. Si tratta di aver messo la marcia di vino, tipo così, però mobiliava, attaccava, lo portava lì in posizione, lo metteva in posizione, boom, lo mollava, pronto, già fatto. E il ragno è là. Sì, quel coso lì. Ma a chi più o meno? Beh, ero grido, non lascia che dormi dalla mano. Tu pensa quanto pesa uno di quei massi che mettono sopra le autotreni per trasportare i granito. Non so, ma pesano un bel, io ho visto quelli che trasportavano da lì da come si chiama? In Alamara, dove c'è il granito della patta, avete la patta in Alamara, si chiama, non mi ha messo più via. Dove c'è? Il granito lì, come si chiama, vicino alla patta, in Alamara, non mi ha messo via. Buduso? Granito di Buduso, la signora Blocco è andata un camion gigantesco. Che appaga, poi quelli sono un po' pericolosi perché non li mettono manco le sponde, niente, lo lasciano così libero. Regatto, vabbè, di ratto quanto vuoi, però ne ho sentito che qualcuno si è liberato. Oh, guarda che non è da molto. Se tu andavi sulla strada di Olbia che portava la Olbia a carico sulla nave, se tu andavi poco prima di molti quei tornanti e vedi che ce n'erano un paio, i camion si sono rovesciati con quello. È pericoloso, è pericoloso. E una volta c'era un camion grosso davanti a me. Ho visto che si stava aprendo lo sportello di dietro. Cazzo, come ho visto così, gli ho fatto passare, gliene faranno un gruppo elettrogeno di quelli, ma di quelli grandi a vino, io non so come ci ha fatto. Ha fatto le curve, si sono impedriati, lì si è aperto. Ho trovato un tornante dove sono riuscito a sorpassare, c'era una macchina a distanza, ha fatto il tempo a tempo a fermarsi. C'era chi c'aveva. Allora, mi ricordo che lì appunto sulla, quando si passava da dentro Oschi, appena che superavi Oschi, che dove poco dopo mi era caduto l'aereo, non so se te lo ricordi, mi era caduto quell'aereo. No, non me lo ricordo, però so dove Oschi. Subito dopo l'uscita del paese era caduto quell'aereo militare, ci sono anche, cioè perlomeno credo, adesso sono tanto tempo che lo passo, ma mi pare che ci sono ancora le croci con le rabbie e con i nomi, se non sbaglio. Ah, io passavo spesso quando andavo a Olbia prima, ma adesso non sto più passando a Uschi. Ma io infatti sto dicendo, quando passavi, obbligatoriamente prima passavi a Uschi per andare a Olbia. Subito dopo, appunto, dove era caduto quell'aereo militare, dove erano morti quei tre militari, e lì c'è uno di quei cosi pianari con una ruspa, di quelle ruspe gigantesche. Si è inclinato in quel canale lì e si è rovesciata uno di quegli scavatori gigantischi. Un bulldozer. Seguito era qui dentro un camion di montirlo, una volta, come ti cazzo si chiama, un trattore. Insomma, si era varato, ma qualcosa vera. L'utilante, il mondo che si cava in acciaio, però l'utilante che mantenia appena un coso di cinghi passava, di un cinco, non so quanti cazzo passava, comunque questo cavo quando lui è sceso, adesso se era scampato era rimasto sulla motrice tranquilla beato, si è aspettato quel cavo lì, l'ha pigliato a pittorra e a giumano non sai in due. Che sfiga, no? Vabbè. Se ti accorgi qualcosa che non va, per forza scendi a vedere di rimediare. Normale. Uno che fa quel lavoro fa così. Purtroppo sono cose che non ti immagini e che succedono in un attimo. Attento, Gianni. Sì, avanti. Allora, siamo... Cosa siamo stasera? Chi è che chiama Gianni? Avanti. Marchetto solo. Ho detto, allora, come ci organizziamo stasera? Stasera. Per me va bene verso le 9:15 a casa, cosa dici? Per me va bene lo stesso. Tu cosa dici? Aspetta, passo a Giuseppe. Oh, Gianni! Ehi, a Giuseppe. Sì, per me va bene lo stesso, dai, non c'è problema. Falchetto, lo porti giù tu? Per me non c'è problema, guarda, io adesso ho Falchetto, possiamo anche prenderlo quando stiamo scendendo, perché è inutile scendere e poi risalire. No, facciamo, saliamo e poi scendiamo verso il produttore, no? Come vuoi, per me non c'è problema, perché posso anche scendere io a prenderlo, Mino, oppure ci troviamo lì direttamente, come volete voi, per me non c'è problema. Tanto siamo in 5, andiamo con una macchina, portiamo anche la via. Non ci sta problema per me, Gianni, voi ditemi quello che c'è da fare e io lo faccio. Vabbè, facciamo così, Pierpa, veniamo a prenderti allora. Aspetta, qua c'è un problema. Fate così. E allora? Io allora almeno un quarto sotto casa. Sotto casa tua, Gianni? O sotto casa di Pierpaolo? Non ho capito. Sotto casa mia, poi prendiamo Pierpaolo e continuiamo ad andare, no? Tanto da lì, sulla 131, poi ci esce. Va bene, per me non c'è problema. Vabbè, Pierpaolo, lo chiamiamo, quando arriviamo sotto lo chiamiamo. Ok, allora un quarto alle 9 sotto casa tua. Sì, va bene. E riprendete voi, Gianni. Adesso dove state andando? Sempre da cosa siete? Da Pomponi? No, noi stiamo rientrando a casa di Falchetto, Gianni. Ah, tu sei rientro a casa, eh? Capo, io devo anche rientrare a casa perché devo sbrigare anche alcune commissioni giù. Io l'ho detto anche a Natalino, ma Natalino non lo so se deve uscire. C'è un'uscita stasera. Dopo, non c'è problema già, non ci sta problema. Va bene. Allora, anche alle 8:30 mi dice va bene, alle 8:30 va bene. Facciamo alle 8:30, già alle 9:15 siamo a casa, più il Paolo per le 9 siamo giù. Cappa, 8:30 sotto la maisonne, andrà bene. E già vi aspetto in giugno. Cappa. Va bene. Speriamo che ci accettino, che non ci sia un bel genio. No, non c'è problema, basta telefonare, andiamo lì al bowling e si mangia lo stesso. Sentalo più. Chi mi chiama? Avanti. Buonasera, Gianni Caprino da questa parte. Poi già, che dice di uscire male? Io sono in confronto negativo con la PM. Dove sei? Mi sto viaggiando con la barra. Ah, e dove sei? Che so? In spostamento a Spiaggia. Abbiamo visto già il cantino, siamo spiegati nel volo. Sono 2 o 3 che hanno volato da ci vogliono a Cagliari per varie cose dell'epoca, che la voce viene a Cagliari tra pochi giorni. Speriamo che concluda subito questa roba, ripresi. Non stai uscendo bene, non c'è stazionaria, non lo so se poi già ti sentono così, avanti Pierpa. Chi è? Capri 2. Non lo sento per niente. Spengono qui una salita. Pierpa non ti sente per niente, tu lo senti Giuseppe? Io un po' lo sento qui, nelle coordinate in cui sono io, avanti Gianni Capri 2. Giuseppe già figlio la zona alta, già mi sentirai. Ma cosa c'è? Qualcosa attaccato? Perché sei uscito strano? Ma non ce l'ho Gianni, però riesco a tirarti fuori, dai. Sono niente attaccato, non c'ho nulla, sono liscio come l'olio già. Non mi piace come sta uscendo, la radio non è chiara. Non so come ti ascolti Giuseppe, ma io ti sento così. Io lo ascolto perché qui nelle coordinate dove sono io ce l'ho molto, diciamo che ce l'ho abbastanza vicino, però adesso sono sicuro che come mi allontano un po' comincio già a perderlo, perché come radio ce l'ha abbastanza compressa e gracchiante Gianni Capri 2, non so che cosa stia usando. Non niente, l'apparecchiatura normalissima. Mi ascolti già adesso? Sembri in FM già, controlla che non hai messo in FM con l'apparecchio, vai. No, in AM già, adesso me l'ho anche sata lì dove sono, Non lo so, non esce bene comunque. C'è un stazionario o qualche cosa del genere, stazionario misuratene da quella avanti. Gliel'avevo misurate già, gliel'avevo misurate prima, adesso da tempo che l'ho piantato fuori giusto per provarlo e capire. Ok, non lo so già, perché, ripeto, non mi attacco mai in macchina. Dei piccoli passaggi che sia chiaro, poi di nuovo riesci male. Cava. sveglia, ci vedi in pizzeria stasera. No, siamo impegnati, sto andando, capito, a trovare un brigadiere in pensione adesso. Non posso uscire già, sono impegnato per parecchi giorni. Sto andando a casa, sto andando. Adesso chiara è la lavorazione. No, non è chiara. Vabbè, te l'abbiamo detto, siamo andati tutti in greffa, se vuoi dire ci faceva piacere. Che a me avrebbe fatto piacere già, ma come segnale c'è l'antenna? Poco. Attenzione Gianni Capri 2, K. Giuseppe, ascolto lì. Io sono qui in DM di fronte, in questo momento sono di fronte a Livorno. Ti sento forte ma non chiaro, è molto compresa come radio Gianni. Sì, io non gli ho fatto niente alla radio, è nitida, sto usando il nitida Giuseppe, vorrà regolato là dentro, non lo so, l'ho piantato così a vedere come funzionava il paramobile, il segnale è buono Giuseppe, confermi? Negativo Gianni, non posso darti il segnale perché io sto uscendo dalla barretta con la Lancento, ti posso dare solo la misurazione della radio, K. Va benissimo, anche ti ascolto bene Giuseppe, ti ascolto tutte le tacchette accese, già sta andando bene, ok, adesso qui mi sono fermato, faccio un appuntamento, deve venire una macchina con delle persone, siamo che si muovono, vedete dove capite, poi devo andare a questa casa, riprendi Pierpaolo. Infatti ha rilanciato Capri 2. Come mai? C'è poco fa e non sentivo adesso cosa ha fatto. Era in barra mobile, che sta camminando. Ah, no, non lo sento allora. Vabbè. Giuseppe, poco fa mi hai fatto un quesito, c'è tanto fare andare lì. Era per mangiare quel tipo di pizza perché lì hanno i frutti di mare che sono freschi. Nelle altre parti, non lo so. Pensione vera per Giuseppe Cappa. Ma lo senti Giuseppe? No, adesso non l'ho sentito. Non ti sente Giuseppe? Già, che papà fa? Non mi sente Giuseppe. Avevi parlato tu. Adesso sì, ti sento. Questa roba mi dispiace veramente. No, io Gianni Capri 2 che modula e tu non riesci a sentirlo, Pierpa. Ah, Carpa. Infatti Capri 2, cosa stavi dicendo che non si è capito nulla? È accaduto a Pierpaolo, l'ho sentito adesso che stava parlando con Gianni sul 40 quando ero in macchina, però non potevo parlare perché ero negativa. Speriamo detto che non ci siano conseguenze. No, penso di no, va. Ti trovi? Anche se ha un po' di dolori, ma... vabbè, cose che succedono a chi lavora, a chi non lavora queste cose non succedono. Infatti, è andata bene, non sapevo che era... ho sentito a te poi qui là, perché avevo acceso sul 40, perché... stavo modulando stasera, poi ce ne sono dei problemi, già lo sai, finché non metterò a posto la roba, speriamo che la possano mettere a posto, perché... c'è un sacco da fare questi giorni, dai niente, poi hai capito mi sono anche addormentato, stavo leggendo, il giornale mi sono addormentato, e niente, Giuseppe mi senti? Sì, io ti tiro sempre fuori Gianni Capri 2, io sono adesso in via Granci. E a te ti ascolto al 100%, e con ricezione vi ascolto a bomba. Cappa, figurati che io qui nella mia modestissima barretta ho questo 100 piccolo, però già si fa sentire, dai. E io c'ho un baracchino del genere, io c'ho la 48 che è preciso e quasi. 78 anzi, però, non il 48. Non l'hai toccato già, le medie frequenze l'hai toccato con l'apparato. Ma le medie frequenze? A me mi sembra che sia fuori frequenza, che non sia, boh, mamma mi dà quell'impressione lì, poi non lo so. Ma anche Giuseppe te l'ha detto che sei cupo. e tutto quanto, boh, è strano. E la radio forse sarà troppo compressa già. Distorta. E allora c'è quelle leggi di dentro, bisogna passarlo. Dopo l'hai alzato allora, eh? L'hai alzato troppo quello allora. Perché sto usando, io le ho eliminato il microfono che già aveva, che non mi piaceva, che cambiava il canale. Ci ho messo il microfono della 48. Ecco. Gianni? Allora mettimi il suo e vedere come va, se non li abbassa per appellare le 5. Avanti, break. No, sono io, vedi come va? Oh, ciao Yumi. Bene. Tutto bene, grazie a Dio, dai. E a cosa lo hai lasciato? A carburo? Carburo se ne è sceso ieri. Per ieri se ne è sceso. A guardare le donne, no? Oh! Cappa, dai, comunque sono in compagnia di Vera 1. C'è anche Bomolo, mi pare, all'ascolto, non so se vuole entrare. E poi KP2 da Muros. Giuseppe, e via dicendo, dai, va per chi vuoi. Sì, vi stavo ascoltando quando eravate sul 10, poi dopo c'è stata un'interferenza e siccome stavo lavorando vi ho perso in vita. Abagama. Non c'è più sentito, dai, praticamente. Avanti per papere. Yugi. Paolo. Come sto uscendo con questo apparecchio? Dai, bene. Molto chiaro, questo non c'è caramelle. Ia. E quello lì che apparecchio è? L'Intag 34S. Questo qui è nuovo, lo sto provando, è un digitale. Che apparecchio è? M755. Ma c'è anche lei con quello? Non saprei, sto iniziando a smanettare qualche cosa. So che se lo modifico, così hanno detto, poi tutto a vedere, dovrebbe salire qualche cosa molto di più. Beh, è così. Ehi, ti sto chiamando. Ehi, capo, no, ti avevo rilanciato. Perché è entrato Yugi. Yugi? Dov'è Yugi? Ma qua. Già, passa. Portami il cestino della merenda. Ti ha mangiato, visto. Gianni. Beh, da te, che io sono con l'altro bagnaio. Che bello. No! Se mi metto, mi mangerei anche a Gianni intero. Dove vai? Io non me l'ho mangiato. E mangiatela qualche cosina per fare. Attenzione, attenzione sul 40, cazzo! Avanti, avanti, avanti. Questa voce è scandalosa. Senza freni mi sta facendo il via dopo la grande, Naki. Vai con la curva destra! Passa un attimo 30! Scusate un attimo che faccio così greca, dai, sul 30, che mi sta chiamando KP2. Torno subito, torno subito! Giuseppe? Avanti! Fatemi son fatto il via dopo a manettone, cazzo, non ho toccato freni per niente, cazzo. Ho dato una mattana a un BMW che avevo dietro, un BMW, ragazzi, che avevo dietro, la mia macchinetta ancora non è da buttare. Bra. Giuseppe. Avanti, Vera, avanti. Radusese. Comunque c'è sempre male, KP2. Oh, io non capisco, gli ho fatto delle registrazioni nei momenti che riuscivo a bene e le voglio fare ascoltare. da un po' di tempo a questa parte, boh, non sta più uscendo bene. Adesso questo qui gli ha aperto la RC, sicuramente l'ha messa a gruppo, perché non sta facendo uscire addirittura cupo, saturo, buco. E K, così impara, perché gli apparati non si toccano. E poi digli che noi conosciamo un buon antennista, se gli occorre. Fa K. Più che antennista, equilibrista. Mannaggia. Dai, qualche caramella ci vuole, però. Fa K. E tu ne hai caramella. No, non questa qua, no. Sì, io le dai le cingombe, cioè. Mi piaccio. No, con gli occhi. Occhi. Sì. Va bene, ci tiri. Non male. Occhi, basso sono, vero? No, buono, buono. In un esercizio io. Occhi. Le punti, tu a me come mi ascolti. Uno, due, tre, prova. E prova. No, sarà Budi Budi. Ah, Budi Budi, ho capito. Allora Pierpaolo lo ascolti molto bene. In che punto sia adesso? Sia. Ah, l'ultima rotatoria, sto per entrare in via Pirandello. Ah, sì, quindi sei vicino, eh. Sei vicino alla tua mia. Ah, quindi ci dai chi? Yogi! Ma chi sono io? Aspetta un attimino che qua devo dare una scorzolata, perché sennò si vedo che mi pigliano pure a gioco. Antonio, portami alla 48, io. No. Che qua iniziamo a scorzolare forte adesso, io. E così, è così. Turato. No, è capitina. Adesso diamo una pompatina, non si fa le biciclette qua, io. E appaccato. Ehi, ehi, dai. Dove sono? Sa che, che ora sono 7:10, così presto, ma è giusto, sì. Oh, ma dove andiamo? A voce d'urla. Fanno entrare, andiamo lì, al bowling, boh, non lo so dove vuoi. Eh sì, domani sapere se dove entra il bowling, se non vuoi accettare, la qua si libertava a mezzanotte, non so se c'è la prenotazione il sabato. No, è perché quello è un locale a lavoro, io stasera ho nessuna intenzione di farmi la barba, non ce la farei nemmeno. Dove vuoi andare allora, dimmelo tu. Per me, quello non so io, fate voi, se non sono in condizioni, niente. Però la barba io non me la voglio, chi se poco ma sicuro. Beh ragazzi, io vi lascio, la noce mi aspetta. Cappa, una aspetta in paletta e ad ascoltarci alle prossime. Andiamo a fare l'articolo, grazie, molto ci vuole. In linea. Ciao, ecco, l'avevo trovato, una volta in anni. Se no vengo io con Sarburesa. Che se non passa che faccio, devo... che se pure una faccia fette mi devo andare. Ma buona. Non lo so, io non so dove andare, perché di sabato ho prenotti. Quanti siamo? Siamo cinque, così è. Io, tu, Antonio, Falchetto e Giuseppe. In cinque siamo. Telefono al bowling a vedere se ci prende. Lascia stare, lascia, è deciso così, andiamo lì. Vuol dire che chi non mi vuole dare la madre mi dà la figlia. Che cosa... cosa devo fare, cazzo? Oh, te lo giuro, già, non è... ci ha messo la voglia, adesso mi pare la barba, ma non ce la faccio neanche a sollevare, capisco, ce lo capisco. Ma che problema c'è? Vede niente, quella vai baronga. Vabbè, però, insomma, quando si entra in certi posti è meglio un pochettino di cosa, no? Affaccato. E vabbè, diciamo, questo signore l'abbiamo trovato in strada, stava chiedendo delle voci, l'abbiamo portato a mangiare la pizza. No, no, tu dici così, guarda, questo signore qua, non adesso, fra un mesetto così può ripassare, chi non gli vuol dare la madre gli dà la figlia, e lui accetta tutto, ma non adesso però, non stasera mica, no. Ecco, se si presenta la più buona di più buona dello spettacolo, va. No, già, te lo giuro, non gliela faccio proprio che manco, sono sincero io, non ho problemi, stasera io non sarei come una mosca scacciata. Sì, ce lo capisco, se sei stato colpito la più parte è normale che sia così, sei troncato. Se sta in piedi già tanto. No, beh, è inutile stare lì, quando non ci sono le forze, non ci sono le forze, manco per le balle, torna, ehi, popolo da regole a te, sciavi, sì, pezzi, ma popolo a me, capito, quando non ci sono le forze, non c'è niente da fare. E dirlo che la stiamo stando di aspettare. Raga, è rimasto completamente trasferita in chiamata sul mio cellulare perché non ho potuto toglierlo. Cioè, davvero. Ma dimmi una cosa, per quanto costa una bomba da 10 a 15? Una bomba da 15 per il negozio? 35 euro. E lo segna da 40, vuol dire 38. 38 e 50. No, non la dire giù. Fai te. Eh? Adesso mi rispondere, mandalo a quel paese. Fai te. A catturarlo, cosa di naffo, cosa di naffo. Zio, che ho rotto le palle, mamma mia. Già non me ne è manco una paita, le ho volute, fuggi, piazzo mi guardi, si ripagliavo un po', vai. Da voi, se siete sarrati, siete sarrati, non è che... Io, prima di andarmene dalla ditta, prendo, spengo il telefono, lo metto nel cassetto della scrivania. Non me ne arrego a casa, se non è che lo faccio per sbaglio, mi ha portato dalla fretta, ma l'ho posto appresso. Ma questo non è il telefono della ditta, è il mio telefono. Però ci metto il trasferimento di chiamata. Perché a certe ore quando vanno via dal negozio io sono solo, le prendo io la chiamata. E mi è rimasto, oggi mi è rimasto il trasferimento, logicamente perché io non sono potuto ritornare in negozio. No, io uso solo quello della ditta per l'aforo, l'astro rimane in busciacca. Il mio rimane nella tasca, io mi ho tutto, sai che ho due telefoni. Uno lo uso per tutto e l'altro è privato. Eia. Cappa. E vabbè, Pierpa, comunque... Se ti siedi in macchina non penso che dovresti avere problemi. Vabbè, allora riprendetemelo un attimo voi perché io devo fare le manovre di alzarmi perché devo andare per forza in bagno. E vai. Giuseppe, sì. Giuseppe lo risponde. Avanti, avanti, vizia. Sì, Aci. Ci sono. Devo passare in un'altra stazione e provare a fare un filmatino a vedere. Non ho capito. Devo passare in un'altra stazione e fare un filmatino a vedere come esce. fatti una modulata, dai, ci lo metto in posizione. Ah, te lo vuoi mettere sul coso, sul cibicapagato? Mi fa la mettere a parlare con me, dai, così mi voglio sentire come esce questo apparecchio, anche un fallo. Anche quando parlo io registra, così almeno lo sento come esce questo apparecchio, dai. C'è la stazione doppio rum che ti chiama K. Attenzione, Johnny doppio rum, copi qua, stazione Bombolino che fa chiamata K. Avanti Bombolino, 980, la stazione doppio rum con l'S980 ti risponde K. Gappa, qui la cosa è tutta bella, tutta la grande, cambio, cambio, cambio. Minchia. Come gira bene il tuo apparecchio, Gappa? Come esce questo, Antonio? Come sta andando? Oh, sentiva il Gappa Roger. Qua la cosa è tutta bella, è tutta mascola, cambio, cambio, cambio. Ah, adesso vediamo come è uscito, dai. Ia, ia, ia. Col telefonino la stai facendo? La parola, c'è. Andiamo, andiamo su, vediamo qua se è uscito. Ciao, speriamo bene. Ciao. andò all'ospedale. Pazienza. E a volte quando si mette il diavolo di mezzo è un tuo per fa. Allora, aspetta un attimo, cioè, come va questo apparato? Come viene? Andà bene. No, va bene come? Lo gira bene, per fa. Vabbè, se metto la regista te la faccio ascoltare, gira benissimo. Ma c'è un cambiamento totale dall'altro, come? Come gira cosa, però va bene lo stesso, è uguale nel senso che si sente che è un apparecchio che non è normale, dai, si sente che va. Se tu all'altro ti riferisci a quello che metti in macchina è più forte l'altro. Se mi riferisco a quello che metto in macchina, più forte è questo? No, quello là. Quello che è in macchina? È più prepotente. Ma questo non è il typo, Non so cosa sia, però io ti sto dicendo quello che sento. L'altro è più forte, più prepotente, la radio... proprio forte, che ti pacca la legge. E quindi questo non è la volta che ho fatto sette, dai. Questo è bello, ma è più tranquillo, dai. Hola. cellulare. Io ti sto registrando, ti sto, Massimiliano, per vedere la voce mascola. Ti sto registrando? Babbo, per vedere tu cosa puoi fare con questa voce mascolaccia, gatta gatta. Dai, proviamo a fare un bel passaggio alla grande. Che passaggio vuoi fare da qua? Un secondito che faccio spendere la mia 50, un attimo. Così ti volare. Ciao Massimiliano. Ciao già, mi ti ho salutato ma non ci credi, là. Forse ti ero allontanato un secondo. Un secondino che faccio spendere Daniela qua, un secondo solo. Mi sono stato per andare in bagno. Da paga, paga. Provo andare in bagno. Mi sono alzato per quello lì. Cosa hai fatto? era uno, passo passo, però sono riuscito a capire chi era. Avanti, chi era? Non riesco a capire cosa dice, ho capito solo piccolo piccolo e buco. Forse il vulcano è in Colombia. Fammi due colpi importanti, se sei tu. Sono io. Ah, cappa, ti sei giunto in macchina. Non sono giunto in macchina, sono qua. E come è possibile questa cosa? Un passaggio mi sei arrivato a 7, un passaggio 2, com'è questa cosa? La devi capire da solo, Massimiliano, devi capire da solo, siete tutti a questo. No, non sono riuscito a capire, nel senso, in un passaggio 7 e in un passaggio 2, sono io, te l'ho fatto capire, no? Ah, capo a Rogero, dai, adesso riesco a tirarti un po' fuori, dai, passo passo, anche perché io sono qua a plena niente e mi riparati, È positivo, hai capito, c'è il negozio aperto. Capito lui che non può modulare che c'è il negozio aperto. Confermando quello che stavi dicendo tu, volevo confermare quello che non ascolto, hai capito? Volevo confermare quello, con la storia c'è Paolo. Capa, Roglio, io gli ho detto subito, quel proxer forse non si abbina con quella radio, perché magari, cioè non è che non si abbina, le dà troppi acuti, capito? Invece quel CT è l'ultimo che ci ha messo, si abbina meglio. Però nel senso che Antonio con quella radio, quel Proxel, c'ha troppi acuti, Pierpaolo quel microfono lì lo porta molto meglio, capito? Quindi si abbina meglio con Pierpaolo quella microfonia. Ok, dai, Pierpaolo, ti stavo ascoltando, Luigi stava confermando quello che ti dicevo, capito? Questa col GT è migliore. Positivo. Aspetta un secondo che passo la bambina dietro. Gappa, gappa. Attenzione, canale 40, cambio. Bolla. È più acuto. E io a Luigi non lo sento. Tu lo senti a Luigi, io non lo sento. Chiedo a lui a vedere. Qua a me mi sembra molto acuto. Non lo sento neanche io, Luigi Vulcano. No, questo è troppo acuto, lei a confronto al Proxel è molto più acuto, cambio. Infatti io a me mi piace di più, Quel CT mi piace di più, Tu qua? Papà. Ah, è l'altro sembra che ci abbia più quasi, però. No, a me mi piace di più il blu. Quelli che ti ascoltano, capito? Più di... a volte noi ascoltiamo te, non nel senso che, allora, magari a te ti piace con quegli acuti, però a chi ascolta non piace. Ho capito questo, stavo dicendo, perché mi sto allontanando, dice, lo sento proprio passo adesso. Allora, io ti ripeto, per me non è molto orecchiabile, nel senso che non mi piace più di tanto, ti voglio dire la verità. È preferibile quell'altro che ha trovato che ha più passi, questo ha doppi acuti. Cioè, se poi a te, Pierpaolo, piace come ascoltarlo lì, è un altro paio di maniche, però se tu lo senti qua, in un'altra radio, è diversa la musica. E quello adesso è il CTE montato sul coso, ma sulle manote, ho fatto uno strappo alla regola adesso, ma solo adesso ho fatto uno strano e non posso. Ma è il Brunghis? Positivo. Sure. Vabbè, lui gioca. Dai, c'è. Allora ce la risentiamo, dai, cambio. Vabbè, no, io non lo sento. Gambe, aspetta che faccio. Che tu fa lo stesso, poi però devi lasciare ancora la finale, a vedere. Ti faccio la chiamata e faccio la registrazione. Sulla colonnina non voglio sentire la registrazione, come aspetta. Radio che stava sparendo. Adesso va bene. Non me lo chiedi per la me che mi si è incastrato il coso del microfono, perché che... ho sentito la radio che spariva, passa basta. Va bene, dai, lo chiedo, dai che stacco, gamba. Se prendo un altro apparecchio, cambio. Tra poco dobbiamo andare a prepararci. Già mi casa ti vuole il rimpianto di lui. Lui c'ha tutte le antenne lì, da lui sono tutte le antenne televisive, no? Lui ce l'ha lì in mezzo, la sua parte è maledetta, invece io la parte mia non ne ho. E io ho visto come ce l'ha, 5,50. Dalla mia parte non c'è niente, nulla, nulla, nulla, tutto pulito. E vabbè, ma, per dire, forse la posizione è meglio la sua in certi casi, perché lui, per dire, in certi punti magari li sente meglio, tipo Caprillo, per dire, lui lo sente meglio di te, così. Sì, Antonio? Antonio non lo sente per niente. Ah, no? No, no, no, non lo sente per niente. Comunque, Caprillo è... non è peggiorato con queste radio, mi sta un po' è strano, ma che mi faccia lucoso, praticamente. Sì, ma non ho passato te, c'è ancora vecchia, e pigliava una parte, non ce ne tocca. Se io non lancio da più, più all'interno pure, da lì a ogni massa c'era la macchina a bomba, lo so. Ma l'antenna già, l'antenna che le avevo detto io non l'avevo presa, perché le faccio prendere la Mantova 1, la Mantova 5, e lui si è assustato a chiavi sul baro che era grosso. Oh, mamma mia, questa qui è troppo grande, mi dia un'antenna più piccola, era lì dato la Grand Prix. La lì già pure la piazzata bassa anche, e lui ha cominciato male da lì, perché se metteva una bella antenna in alto, già aveva acquistato un metro. Sì, forse qualche apparato e qualche liare che ci ha rimesso non ce l'avrebbe rimesso. Aia. Aia. Se avrebbe salvato qualche cosa. Quello lì è perché non irradiava l'antenna, sbatteva al tetto come se irradiavi verso giù, non irradiava bene, capito? Casino, era battuto il sudravaglio, rientrava, c'era il rientro e ripartiva tutto. Oh, l'antenna così bassa, non si può mettere con radiali così bassi, tutto. Quindi l'altra alternativa è, come ho detto io, lui lì si piazzava una Ringo e lì riusciva a sfogare tutto, perché è alta 4,80 m, se non mi ricordo male, e non aveva bisogno di niente, cioè sarebbe uscito molto più bene e avrebbe radiato meglio anche. Sì, ma lo so, ma anche se metti la Ringo lì, praticamente c'è per fino alto, perché per farebbe la stessa cosa, se la carica giù non penso che li farà bene come quando la metti in alto. Oh Gianni, ti faccio un interrogativo. Sì, che si voglia, no, io ho entrato spesso e volentieri due tipi di antenna, che sono tutti e due cosce minori, uno è l'orologio di Cuba, lo metto già voi di voi. Così è lì. E poi se tu vuoi dire c'è. Ma vedete, scusa per favore. Cavolo, che bello, che se mi prendo delle calcate, non ci credo che hai fatto. Bello, eh. Stavo dicendo, se prendi tu parli con Bombino, c'è un'antenna tipo la tua, e quindi magari la ricezione non è come può essere quella di una mantova, capito? E dipende anche con chi parli, poi una zona magari un po' d'ombra. Cona c'ha una mantova, però dice che la zona è un po' negativa. E comunque la portata ce l'ha, perché a me mi hanno detto che addirittura li ascoltano con loro, ma come mi ascoltano, e la lunghezza ce l'ha, e vedete che se qualcuno ha un'antenna che possa, cioè un'antenna, una radio che possa trasmetterla a quelle zone bene, io lo sento, perché ci sono caro che lo sento. E quindi vede bene che le differenze ci sono anche da chi trasmette da una pace, da una parte che dall'altra. Cazzo, però anche quel parole che stanno facendo, lo sento molto nessuno, ma se vogliamo come mai lo sento. E sono delle differenze enormi. Comunque io ti dico una cosa, se qua la Safari, come la faccio a funzionare io questa antenna, non c'è riuscito altro nessuno, di questo mi si deve dare atto. Perché nessuno è riuscito a far funzionare questa antenna come la faccio funzionare io. E la mia va ancora per tutto. Certo c'è ora una buia, che sarebbe proprio Torres. Ma non per la trasmissione, anche perché ci arrivo, in trasmissione ci arrivo, nella ricezione non c'ho la copertura. Però da tutte le altre parti, insomma, arrivo abbastanza bene. Sì, caspita, no, io non ho niente da dire su quello, va bene sia te che a Falchetto, tutti e due, con l'antenna lì, anche Falchetto è riuscito a farla andare alla grande, perché va anche fuori, eccetera, eccetera, forse anche la posizione, la sua. Guarda, io ti dico una cosa, che se Falchetto fa un accorgimento, che gli dico io devo sapere che chi sta bene alla Ghibli funziona innanzitutto ancora meglio di Ghibli, e ti dico che tu a lui lo senti dappertutto, o quasi dappertutto. La magra. Che fa, se fai miracoli la cambio anche io. Se fai miracoli, però la, come mai la, io riesco a farlo andare e altra gente non c'è riuscita, da molto più vicino anche di me. Ora, diciamo che come antenna non è malvagia, perché ma un tipo di antenna lì c'è anche Roberto, Roberto è meccanico e lui è in zona Usini, dai, più o meno, zona naturale, eppure qua arriva bene. Ci sono un paio di accorgimenti da fare per farlo andare, però già va, non è che così malvagia, dai, è un pochettino in ricezione, però se dall'altra parte c'è anche roba buona, e vedrai che riceve bene, dai. Infatti, comunque l'antenna, diciamo che anche la lunghezza conta, quello vuol dire molto. Anche i radiali vogliono dire molto, perciò non tutto è tutto un insieme, ecco, sia per la trasmissione che per la ricezione. No vabbè, un casino queste antenne, è un casino, però non c'è spazio, ma se fai di mano ma per passira, io lo trovo un po' in difficoltà a Falchetto, e c'è sempre problemi, se arriva qua a piazza la Futidini, certo, se arriva a volta la piazza come Dio comanda, mentre la piazza come Dio comanda, e tiranti, un bel palo, si tranquillo, se ci può un palo, che si muove a busto, ma basso non fosse un nome, ma ha busto un palo di quelli, come si chiama, di quelli davanti alle TV, si è pigiato, Cambierò casa, vedrete. Uno, tre, prova. Prova. Oh. Uno, due, tre, prova radio. Ho fatto bene anch'io, però un po' dai, definitivo.